sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Alfonso 40 è il nuovo presidente della Corte Costituzionale. Ad Arcole il vertice chiarificatore PDL Lega, Bersani. Adesso hanno scoperto le primarie, ma l'unica cosa giovane del PDL sono i capelli del Premier. 3 giorni di stop per problemi telematici. Poste Italiane ora apre ai consumatori per eventuali risarcimenti. Stasera tornerà in pubblico Steve Jobs per presentare iCloud, la nuvola per ascoltare musica e vedere filmati in streaming senza scaricarli. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. La Corte Costituzionale ha eletto dunque il nuovo presidente. In diretta Andrea Viali. Sì, buongiorno. 75 anni, napoletano Alfonso 40 è il 35esimo presidente della Consulta, ritenuto più vicino al centrodestra, è stato eletto stamattina a larga maggioranza e senza rispettare il criterio di anzianità che normalmente viene seguito per la scelta del presidente. Nella sua prima conferenza stampa, 40 ha subito voluto ribadire l'indipendenza della Corte dalla politica. Sentiamolo. Questa mia elezione, a dispetto di qualche inopportuna interferenza esterna sulla sua autonomia, faccia anche definitivamente giustizia di ogni illazione, che mi auguro ora cessi del tutto, circa la presunta politicizzazione della Corte. È una votazione, quella che si è avuta, che supera ogni dubbio a questo riguardo. Ma 40 oggi ha parlato anche del referendum sul nucleare, ha detto di non ritenere che la Corte possa bloccarlo. Domani, lo ricordiamo, la Consulta dovrà decidere se ammettere o meno il nuovo quesito referendario riformulato, lo ricorderete, nei giorni scorsi dalla Cassazione, e proprio oggi la Cassazione ha diffuso le motivazioni della sua sentenza, ha spiegato che con il decreto omnibus viene sì introdotta la moratoria, ma con l'articolo 5 si dettano anche regole aventi la forza e l'efficacia di una legge che apre nell'immediato al nucleare, di qui la decisione di confermare il referendum. Piera, a te la linea. Grazie, grazie ad Andrea Viali. Restiamo su uno degli argomenti appunto referendari di domenica, il nucleare. La Germania ha adottato questa mattina il progetto di legge che prevede l'abbandono del nucleare entro il 2022. E tracce di plutonio invece in Giappone, nei dintorni di Fukushima. L'allarme era già risuonato poco dopo il terremoto tsunami che danneggiò la centrale. Ora è certezza. A marzo fu la TEPCO, ovvero il gestore dell'impianto, a far partire l'allerta e poi ritrattare. Adesso invece è l'Università di Kanazawa e i dati sembrano inconfutabili. C'è plutonio nei campioni di terreno prelevati nella città di Okuma, a meno di 2 chilometri dalla centrale nucleare. La quantità è inferiore al livello medio di plutonio osservato dopo i test delle bombe nucleari fatti dalla Corea del Nord, cui fino ad oggi erano collegate le tracce di plutonio rinvenute in Giappone. Ma il punto è che questa volta la colpa non è di Pyongyang, ma delle radiazioni di Fukushima, dove i reattori dal numero 1 al 3 hanno subito pesanti danni, inclusa la fusione parziale. Sulla pericolosità di quelle quantità di plutonio i pareri non sono univoci, ma l'allarme resta e TEPCO sprofonda in borsa, meno 28%, mentre il presidente del Tokyo Stock Exchange si augura che avvii le procedure di bancarotta. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Ad Arcore il vertice chiarificatore PDL Lega, a Roma la direzione nazionale del PD. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Un vertice, quello tra Berlusconi e Bossi, il primo in forma così ufficiale dopo i ballottaggi, destinato a tracciare una linea netta nella legislatura. Come procedere dunque da qui alle politiche del 2013? Quali le riforme su cui puntare e come rivedere l'assetto della compagine di governo? Tutti veri e propri nodi da sciogliere. La giornata si preannuncia calda non solo dal punto di vista meteorologico, ha commentato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta. Quanto agli interventi da mettere subito in cantiere, non ci sarebbero dubbi. Prioritaria per PDL e Lega è la riforma del fisco, meno tasse per famiglie ed imprese. C'è da superare tuttavia le resistenze in tal senso di Tremonti, che continua a ricordare al Premier la promessa che lo stesso Berlusconi ha fatto in sede europea, il pareggio di bilancio nel 2014, obiettivo che si può raggiungere, ricordano, dal Tesoro solo mantenendo i conti in ordine. Altro capitolo, il rimpasto di governo. Dopo il passaggio di Alfano dalla giustizia alla guida del PDL, il ministero resterà nel bacino di Via dell'Umiltà, ma la Lega chiede di avere più peso nell'esecutivo a partire da Maroni, vice premier. Quanto candidato all'opposizione, è il giorno della direzione del Partito Democratico, lavoriamo per essere il primo partito italiano, dice Bersani, che aggiunge: la maggioranza non c'è più, la strada maestra è il voto. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. E fra i temi cardine dell'annunciata riforma fiscale che sarà sul tavolo del vertice di Arcore, il nodo dello spostamento della pressione fiscale dalle persone alle cose. Lo scrive il Sole 24 Ore del lunedì, oggi in edicola, secondo cui la soluzione potrebbe arrivare da un leggero aumento dell'IVA, ma anche dalla revisione del sistema delle agevolazioni e da un rilancio della lotta all'evasione. Paolo Piacenza ha intervistato Giorgio Guerrini, presidente di Rete Imprese Italia, associazione nata dall'Unione di Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Casartigiani e CNA. I miracoli non si fanno con la bacchetta magica, nel senso che vi è una situazione economico-finanziaria nel nostro paese che non consente grandissime manovre. Tante gli obblighi del patto di stabilità a cui l'Italia deve far fronte. Noi diciamo che si possono operare tantissime recuperi di fiscalità e recuperi di sprechi che dovrebbero consentire di riequilibrare un fisco che è troppo squilibrato nei confronti di chi svolge un'attività economica e che produce economia e posti di lavoro, e meno pesante soprattutto sul fronte delle rendite finanziarie e speculative. Si parla molto dell'eventualità di un leggero ritocco delle aliquote IVA. È una cosa che secondo voi è accettabile se fosse riequilibrata dalla riduzione delle imposte sulle imprese? Con una economia di consumi interni così stagnanti ormai da anni, con prospettive a breve di ripresa molto limitata, andare a ritoccare in rialzo le aliquote IVA sarebbe una delle cose più sbagliate da fare. Quindi abbiamo detto fin dall'inizio che il fronte non è quello, il fronte è una riduzione di pressione fiscale su chi lavora e un aumento di pressione fiscale sulle rendite speculative finanziarie. I hope that the new step we are beginning now. Sono state in inglese, come sentite, le prime parole alla comunità economica di Pedro Passos Coelho, neo leader portoghese. Il Portogallo ha detto questa notte nella prima conferenza stampa: non sarà un fardello per i suoi creditori. Il voto in Portogallo ha segnato l'uscita di scena di Sócrates, capo del governo portoghese dal 2005. Anche oggi decine di manifestanti siriani e palestinesi si sono radunati vicino alle postazioni avanzate israeliane sulle alture occupate del Golan. Finora non si segnalano per fortuna incidenti. Ieri, in occasione della giornata della Naxa, il termine arabo che si riferisce alla sconfitta militare patita nel 67 dagli eserciti di Siria, Egitto e Giordania da parte delle forze israeliane, centinaia di dimostranti siriani e palestinesi hanno cercato per molte ore di aprire una breccia nei reticolati di frontiera. Secondo le autorità siriane, per oltre 20 persone sarebbero rimaste uccise e sarebbero centinaia i feriti. Israele replica che si tratta di cifre molto esagerate e accusa la Siria di aver innescato la tensione sul Golan per distogliere l'attenzione internazionale dalla pressione militare che sta attuando in questo periodo nel paese. In diretta con noi l'inviato del Sole 24 Ore, Ugo Tramballi. Buongiorno. Buongiorno. Le accuse israeliane possono essere alla Siria, possono essere realistiche in qualche modo? Israele ha ragione e ha torto. Ha ragione perché è chiaramente un uso brutale della questione palestinese da parte dei siriani. Questa celebrazione si celebra da 44 anni, non era mai successo. Curiosamente succede nell'anno in cui la Siria sta esplodendo, la gente è stufa del regime siriano. Quindi è chiaro che un ennesimo da parte siriana uso brutale della questione palestinese a fini interni, per sviare l'interesse della gente. Israele ha torto perché comunque il problema esiste, lo Stato palestinese ancora non esiste e Israele ha gravi responsabilità nell'inesistenza dello Stato palestinese. E quindi tu, Ugo, cosa prevedi adesso? Che cosa potrebbe succedere? Sono convinto che la Siria farà ancora uso di questa dello strumento palestinese nella speranza di cominciare a risollevare le masse non solo siriane ma tutte le masse arabe ora impegnate nella loro libertà nazionale, e rimpegnare e riportarle su un vecchio tema che è quello appunto della questione palestinese, della lotta di liberazione palestinese, che dal mondo arabo, anche il mondo arabo oggi molto impegnato nella sua stessa libertà, però dal mondo arabo è molto sentita e è sotto traccia, prima o poi riesploderà. Grazie all'inviato del Sole 24 Ore Ugo Tramballi. L'ex direttore del Fondo Monetario Internazionale Dominique Strauss-Kahn comparirà oggi davanti ad un tribunale di New York per proclamarsi non colpevole dell'accusa di aver tentato di violentare una cameriera d'albergo a Manhattan. Strauss-Kahn, 62 anni, rischia fino a 25 anni di carcere. Fissata al 14 giugno la nuova udienza del processo Ruby, la giovane marocchina parte offesa al processo che è ripreso oggi a Milano, in cui il presidente del Consiglio Berlusconi è imputato per concussione e prostituzione minorile. Ruby intanto ha cambiato avvocato. Tocca ai due giocatori dell'Ascoli, finiti ai domiciliari, Vincenzo Sommese e Vittorio Micolucci, comparire davanti al giudice di Cremona oggi per la vicenda del calcio scommesse. In diretta Raffaella Calandra. Sì, buongiorno. Sollevato il coperchio, la settimana dell'inchiesta che ha riportato il calcio nella bufera riprende con i due nuovi interrogatori, come dicevate, con 44 indagati a Cremona e nuove domande sugli scenari futuri tra il nord e il sud d'Italia. Oggi risponderanno alle domande del GIP Salvini, Vincenzo Sommese e Vittorio Micolucci, capitano e difensore dell'Ascoli, arrestati con l'accusa di aver fatto parte di questo sistema di partite vendute e scommesse organizzate. 67.000 euro, secondo gli inquirenti, sarebbe il debito del capitano della squadra marchigiana nei confronti di Pirani, il medico che nel suo interrogatorio ha aperto il varco alle prime ammissioni e tirato in ballo pure squadre di Serie A, ossia Roma, Fiorentina, Genoa, Lecce e Cagliari. Nelle intercettazioni, in più circostanze, ora l'una ora l'altro degli indagati dice di avere accordi con giocatori di Lecce nella partita con l'Inter, di conoscere Della Valle per la Fiorentina o fa il nome di De Rossi per la Roma, ma gli inquirenti vogliono stabilire quanto siano millanterie o meno. Di sicuro a tremare ora sono soprattutto Atalanta e Siena. L'Atalanta me l'aspettavo diversa, poi succede sempre l'imponderabile, diceva al telefono proprio con Micolucci il medico Pirani, che domani sarà risentito dagli inquirenti. E lo stesso Micolucci che nelle intercettazioni raccontava di una fallita combin nell'incontro tra Ascoli e Atalanta. Atalanta, dicevamo, che potrebbe essere coinvolta anche nei suoi vertici societari, ma i sospetti trapelati dalle conversazioni sarebbero ancora da verificare. E mentre anche un altro personaggio chiave, Paoloni, aspetta di essere sentito dal procuratore, nuovi sviluppi sul calcio scommesse si attendono anche da Napoli, dove, come vi abbiamo già anticipato sabato in Storiace, più inchieste stanno accertando anche gli interessi della Camorra su diverse partite. E per ora è tutto. Grazie Raffaella Calandra. Va fatta una riflessione ampia di carattere generale, dice arrivando all'assemblea il presidente della Lega Calcio di A, Maurizio Beretta. Anche se per ora non ci sono vicende specifiche che riguardano la Serie A, il mondo del calcio è danneggiato da rischi reputazionali di questo genere. Tutti devono reagire contro l'indifferenza per la tragedia immigrazione nel Mediterraneo. L'appello oggi sul Corriere del presidente della Repubblica Napolitano. Ne riparleremo dopo la viabilità. Alfonso 40 è il nuovo presidente della Corte Costituzionale. Non credo che la consulta possa stoppare il referendum sul nucleare, dice. Ad Arcore il vertice chiarificatore PDL Lega Bersani. Adesso hanno scoperto le primarie, ma l'unica cosa giovane del PDL sono i capelli del Premier. E ripartiamo dall'appello di Napolitano ad una maggiore sensibilità nei confronti delle tragedie degli immigrati nel Mediterraneo. Oggi sul Corriere della Sera, lettera aperta del Capo dello Stato che chiede una reazione all'assuefazione a tragedie come quella di qualche giorno fa nel canale di Sicilia, con centinaia di morti in mare. Quale la responsabilità di stampa e TV? Anna Migliorati l'ha chiesto al vice direttore della stampa Massimo Granellini. Siamo dei propagatori di paure, per cui dobbiamo stimolare le paure e quindi alzare sempre il tono delle nostre urla, e questo naturalmente provoca, proprio come nei drogati, no? Bisogna sempre aumentare la dose per riuscire ancora a colpire chi sta dall'altra parte e che ascolta questi messaggi. Ed è chiaro che il pubblico si difende nell'unico modo possibile, staccando la spina dell'emotività per non soffrire troppo. Spesso i telegiornali, tu hai un minuto in onda il bambino che muore sulla barca che affonda e un minuto dopo le immagini del matrimonio di Kate, no? E allora tutto è uguale a tutto. Si forma questa assuefazione, più aggiungi un elemento invece che riguarda i giornalisti, secondo me, che è la noia. Cioè, noi una notizia dopo due giorni che la raccontiamo sia già venuta a noi, il terzo giorno ci siamo stufati. Non è che non prestiamo attenzione perché nel mondo dell'immagine, di quei battelli fantasma le immagini non le abbiamo. Le abbiamo dei profughi che arrivano a Lampedusa, non di quelli che si perdono in acqua, e quindi non sono una storia perché non c'è l'immagine. Questo è un altro elemento del problema, che noi viviamo in una civiltà dello spettacolo, in fondo anche della guerra in Libia adesso, è un altro evento di cui c'è una guerra e noi non ci stiamo più occupando. Anche lì non ci sono immagini, e credo sia questa la vera grande responsabilità del giornalista, perché questo da uomo di parola lo dico anche con molto dispiacere. Oggi c'è più forza, c'è più responsabilità nel scegliere quale foto mettere sul giornale che non quale articolo, perché oggi obiettivamente un'immagine ha un potere 100 volte superiore a quello di un editoriale. Era Massimo Gramellini, vice direttore della Stampa. Ministri della Salute riuniti a Lussemburgo per fare il punto sul batterio killer. Alessandra Schepisi. Sì, l'emergenza del batterio di E. coli per la prima volta sul tavolo dei 27 rappresentanti della salute, batterio che, lo ricordiamo, ha causato finora 22 morti, di cui 21 solo in Germania. I test batteriologici dovranno confermarlo, ma sembra che la causa dell'epidemia sia nei germogli di soia prodotti da una cooperativa biologica della Bassa Sassonia. La Commissione europea ha però precisato che non esiste nessuna allerta specifica europea su questo vegetale, poiché i germogli di soia incriminati sono stati individuati in un'azienda identificata e precisa, né pare ci siano state esportazioni di questi germogli. Dello stesso avviso il ministro della salute italiano Fazio, per il quale si tratta di una situazione locale ed è sbagliato focalizzarsi sul singolo prodotto. Sentiamo la sua voce. Credo che al di là di focalizzarsi su quelle che sono i singoli vegetali, poiché sono situazioni locali, forse conviene fare un approfondimento, e in questo senso i nostri tavoli tecnici nell'ambito di quelli che sono le riunioni telematiche che sono avvenute, che avvengono giornalmente, hanno chiesto di vedere, di fare una focalizzazione, cosa che in questo caso sembra sia appunto avvenuta in questa azienda, su quelle che sono le situazioni di produzione ma anche le situazioni di confezionamento. Domani invece consiglio straordinario dei ministri dell'agricoltura per fare il punto sui danni economici. La Commissione europea proporrà compensazioni finanziarie per aiutare i produttori di vegetali e frutta colpiti dall'allerta sul batterio, in particolare quelli spagnoli. E con questo è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi. Poste Italiane ha accolto la richiesta di un tavolo di conciliazione avanzata dalle associazioni dei consumatori. Servirà per risarcire i cittadini per i disagi subiti nei giorni scorsi a causa di un problema al servizio informatico delle poste. Ma sentiamo com'è adesso la situazione dalla voce di Agostino Mazzurco, responsabile ufficio comunicazione Poste Italiane. Questa mattina gli uffici postali hanno aperto tutti regolarmente, certo c'è ancora un forte rallentamento nella rete dovuto a una grande richiesta di servizi, però insomma la situazione sta man mano riprendendo regolarmente. Noi abbiamo dato disposizioni agli uffici postali, che avevano ovviamente l'operatività dello sportello, di tenere aperti gli uffici postali fino alla richiesta di servizi da parte dei cittadini, cosa che faremo anche oggi e nei prossimi giorni, quindi tutti gli uffici postali che saranno operativi tecnicamente abbiamo dato a disposizione di tenere aperte fino all'esaurissimo di richiesta di servizi. Cosa è successo nello specifico? Siamo passati a un nuovo sistema operativo, e come ogni volta quando si inizia chiaramente un nuovo progetto, un nuovo programma, c'è sempre una fase di rollout che è fondamentale. Un software che permetterà di velocizzare di molto l'operatività allo sportello, quindi una riduzione ulteriore dei tempi di attesa allo sportello. Steve Jobs svelerà oggi in prima persona a San Francisco i dettagli su iCloud, che secondo molti esperti americani segnerà l'inizio dell'era post-PC. In diretta Enrico Pagliarini. Buongiorno a tutti. Quella di questa sera, la mattina in California, sarà la seconda uscita pubblica per Steve Jobs dopo il ritiro per malattia a tempo indeterminato, ricordiamo iniziato il 17 gennaio per curare una rara forma di cancro. Stesso palcoscenico di sempre, quello del Moscone Center di San Francisco, dove le novità dovrebbero riguardare solo software e servizi, quindi nessun prodotto. Ci sarà il lancio dei nuovi sistemi operativi per Mac, iPad e iPhone e soprattutto un servizio di cui al momento si conosce solo il nome, come iCloud, davanti la solita I dei prodotti e servizi Apple, seguito da uno dei grandi trend del momento, potremmo dire, cioè il cloud, dove cloud sta per la nuvola di internet. iCloud dovrebbe permettere agli utenti di iTunes di ascoltare la propria musica online senza doverla scaricare sul computer o sull'iPod, ad esempio. iCloud potrebbe anche offrire altre cose sempre erogate via internet, come un servizio di backup dei dati online. C'è da dire che in questo caso Apple rincorre, potremmo dire, altri concorrenti. Pensiamo a Google, che oltre alla posta elettronica offre una suite simile a Office online, e da qualche settimana per i soli Stati Uniti e in via sperimentale ha lanciato Music Beta by Google per ascoltare musica online, come si dice, in streaming. Servizi di questo tipo esistono a pagamento anche in Italia e sono offerti tra gli altri da Dada con PlayMe o da gestori telefonici come Telecom Italia o Fastweb. Per tornare ad Apple e soprattutto per sapere cosa verrà presentato questa sera, bisognerà attendere fino alle 19 ora italiana. Grazie ad Enrico Pagliarini. Il 6 giugno di 150 anni fa moriva Camillo Benso di Cavour. A voler essere agiografici, a santificare cioè la figura di un padre della patria, si potrebbe dire che, fatta l'Italia, Camillo Benso, conte di Cavour, decise che la sua missione era finita e si spense. Morì a 3 mesi dalla proclamazione del regno in Parlamento, ucciso, al di là delle ipotesi complottistiche che parlano addirittura di un avvelenamento francese, presumibilmente dalla malaria, contratta nelle risaie di sua proprietà anni addietro. Si è scritto e detto fin troppo di lui. Un grande statista, certo, in questo riconosciuto da tutte le grandi diplomazie europee e ancora studiato nelle scuole di relazioni internazionali. Un uomo con lo sguardo rivolto al futuro, sostenitore della necessità di dotare il regno di infrastrutture adeguate e impegnato a fondo nell'innovazione agricola. Ma anche, secondo un'idea diffusa in una certa fascia di studiosi appassionati di storia meridionali, incapace di comprendere il problema del mezzogiorno. Fu anche altro, un gourmand e, fatto poco noto, un grande seduttore. Basso, grassoccio, bruttino, eppure dotato di un carisma che le donne dell'epoca seppero afferrare. «Sono incapace di resistere alle preghiere di una bella donna in lacrime», scrisse in una lettera. Del resto rimase sempre scapolo. Anche questi aspetti dell'uomo sono ben raccontati da una mostra allestita fino al 26 giugno a Palazzo Cavour a Torino, dove sono stati minuziosamente ricostruiti gli ambienti dell'epoca e 2 ricevimenti da 1000 persone ciascuno offerti dal conte in quel fatidico 1861. E qua esce il gourmand, quello che era in grado a pranzo di mangiare, stando a quanto racconta il padre, grossa scodella di zuppa, 2 cotolette, un piatto di lesso, un beccaccino, riso, patate, fagiolini, uva e caffè. Quello che curò il menù della serata, perché amava mangiare, ma un'ottima cena era anche un ottimo modo di fare politica. Simone Spezia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il basket ci porta negli Stati Uniti. Miami vince in trasferta la 3ª sfida della finale NBA e si porta sul 2-1 contro Dallas. La 4ª partita di questa finale, al meglio delle 7, si giocherà martedì a Dallas. Questo invece è il basket di casa nostra. Sarà Siena-Cantù la finale del campionato. I Brianzoli eliminano Milano e tornano in finale dopo 30 anni. Squibba 93, Sinudine 83. La Squib di Cantù è campione d'Italia 1981. E chi di un altro basket, quando il tiro da 3 era ancora una chimera e la voce di Aldo Giordani spezzava via microfono il verbo della palla a spicchi. 30 anni dopo c'è ancora Cantù a giocarsi lo scudetto. Allora gli eroi erano Marzorati, Riva, Bariviera, Boswell e Flowers, guidati in panchina dal Vate, Valerio Bianchini. Stavolta il nocchiero è Andrea Trinchieri e la ciurma multietnica è guidata dall'uruguagio Mazzarino, poi c'è il Marines Lunen, l'austriaco Ortner, il serbo Mikoz. Una brigata orgogliosa che spazza via la Milano delle griffe e dei milioni. È il fallimento del progetto targato Armani, ora tutto da riscrivere. E l'addio di coach Dan Peterson, tornato in panca dopo 24 anni, ma che vede infranto il sogno di essere ancora vincente nel segno dell'Olimpia. Adesso per Cantù c'è la sfida con la corazzata Siena. Missione impossibile, ma anche 30 anni fa vincere avrebbero dovuto essere gli altri. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto, prossimo GR 24 alle 14. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.